Sono in assoluto il maggiore perseguitato dalla magistratura di tutte le epoche, di tutta la storia degli uomini in tutto il mondo. Non ammetto che vengano fatte alcune accuse, alcune insinuazioni sul mio conto da persone che non mi conoscono e hanno detto appunto che non mi conoscono. Adesso lui deve camminare sui suoi due piedi e mi auguro che lo farà. Sono fascisti tutti. E poi diciamo pure che la cosa più grave di questa vicenda è che insegna a chi la guarda che l'unica regola è il fascismo. Yeah.